and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ma me. Cos'è? Cos'è questo? Mo, ah già, K. Qui sta già introducendo un po' quella che è il tema di questa puntata. Specialissima puntata. Puntata speciale, ma perché abbiamo un ospite eccezionale oggi a Chiedo Asilo, un cantante. Ma che cantante? Un musicista, ma un grande jazzista, un maestro di canto. Un pianista, che cantante. Vabbè, un pianista jazz, ma anche un vocal coach, perché lui tutti i martedì si traveste con Elio e partecipa va X Factor e fa il vocal coach della squadra di Elio. Che poi però, scusami, all'asilo non è che vada tanto bene. Perché? È perché lui con Elio fa il vocal coach dei vecchi, perché così a X Factor, la squadra vecchi, di Elio, quella un di geronto sì. Vocal coach. C'è con noi il maestro Alberto Tafuri. Ciao, applauso. Applauso dei bambini, sono entusiasti. Oh, bene. Allora, è abituato a stare in mezzo ai bambini, anche se insegna ai vecchi. Ma come? Perché sì, perché i talent show alla fine davanti alle telecamere si diventa un po' tutti bambini, sì, si vedono queste queste scaramucce tra i giudici, vocal coach, vero o no, maestro Tafuri? Sì, verissimo, verissimo. Chi è più bambino, il giudice o il presentatore, il più bambino. Ah. Maestro Tafuri, io capisco il suo capitano, Elio, ma lei è un maestro per definizione. Bisognerebbe avere un abito da maestro. Qui in questo caso Facchinetti così rimproverava un po' il maestro Tafuri di avere un vestito un po' sopra le righe. Era vestito, credo, da ufficiale. O forse era quella volta che era vestito da Marajà. No, era ufficiale di un esercito austro-ungarico. Vabbè, comunque qui dobbiamo parlare del suo essere maestro in quanto vocal coach. Hai ragione. Vocal coach è un maestro di canto, quindi. Quindi potrebbe insegnare a cantare anche a me, penso un po'. No. Sì, non esattamente, anche quello, ma anche altre cose. Il vocal coach la mattina della puntata di X Factor si vede con i cantanti e a quel punto cosa deve fare? Assegna le tonalità. Questa è già una cosa. Sì, la prima cosa si assegnano le tonalità dei pezzi, poi si raccolgono le indicazioni dei cantanti sul mondo sonoro di riferimento che loro vorrebbero e si danno, girate al contrario, alla produzione. Cioè, prima si sentono i cantanti e poi si fa il contrario. Sì, lì si chiede, poi le indicazioni appunto sono di varia genere. No, ma a me piacerebbe, per esempio, perché Lenny Kravitz, comunque quando ero piccola, io me lo ricordo. Benissimo, molto bene. E poi chiaramente si fa l'opposto. Perché più è difficile l'ostacolo da superare, più si misura la tua bravura. Questo è il nostro concetto di partenza. Perché attenzione, il maestro Tafuri è un filosofo, è colui che ha coniato la frase alla domanda che cos'è l'X Factor, lui ha tuonato. Si dice X Factor la distanza tra te e te stesso. Capito, Drago, devi capire, tra te e te stesso, che distanza c'è? Ma insomma, siamo abbastanza coincidenti, quindi non credo di avere alcun X Factor. No, allora al contrario, scusa. Se sei coincidente, hai in pieno l'X Factor. Ma come, la distanza? Perché è meno distanza. Certo, è meno inversamente proporzionale. Per forza, cioè tra quello che sei e quello che sogni di essere. Quanto più sei vicino, tanto più hai l'X Factor. Asilo. Qui col maestro Tafuri non possiamo evitare di citare una frase che è passata quasi alla storia di quasi più della sua, quella di Elio sulla gomma pane. Sentiamola un attimo. Innanzitutto non si può fare come a scuola quando c'hai 7 anni. Siccome tu mi hai preso la gomma pane, adesso io ti frego la matita. Stiamo parlando di cose serie. Qui allora siamo qui all'asilo. Elio mette il dito sulla piaga, cioè ai talent show alla fine si ritorna un po' a uno stato di infantilismo, quindi attenzione, avete tutti una 50ina d'anni ma vi comportate come se ne avessimo. Ma più si va avanti con le puntate più diventano litigiosi, perché l'affare si comincia a far serio. Sì, verissimo. Sì, già i saluti sono molto più formali, molto più, allora stai bene, tutto bene, bene, sono contento, e schizzano via, non li vedi più. Così. Sì. Quindi la gomma pane è una realtà. No, la gomma pane è una dimensione altra, cioè la dimensione della gomma pane, la prossima sarà quella della merendina, e dopo la merendina ci sarà la deriva finale che è quella del bagnetto, sai i cessetti piccoli dei bambini, no? Quelli che tu quando vai all'asilo dici, ma pensa che anch'io passavo da lì. Quella sarà la prossima. Userete i bagnetti dell'asilo. Sì, i bagnetti, sì. Vabbè, ma noi siamo legati a una dimensione, insomma, sai, la potenza della memoria, noi siamo proiettati all'indietro, per cui tutto quello che richiama, quello che è stato, è bello, è positivo. Chiedo asilo! approfittiamo della presenza del maestro Tafuri anche per chiedere qualche consiglio sui nostri artisti. Eh beh, certo. Di Kid Factor. Naturalmente, eh. Insomma, è un talent show con i fiocchi il nostro. Eh beh, col fiocchettini, quelli che si usano all'asilo, certo. Del grembiulino. Va bene, allora, maestro Tafuri, lei chiaramente conosce perfettamente le opere di Dini e di Seba, quindi passiamo direttamente. Quali sono i pro e i contro, diciamo, i punti di forza, i punti di debolezza di questi due artisti? Allora, guarda, Dini mi sembra molto melodico, è molto dolce, ha un bellissimo timbro e la scelta dei pezzi la trovo assolutamente azzeccata. Io te lo dico, i musicisti però ecco, si potrebbe migliorare un pochino sulla pronuncia musicale, dico pronuncia musicale, della frase musicale, cioè non si sente che vorrebbe fare dei glissati, che vorrebbe fare dei mordenti, ma non ha abbastanza tecnica. Per quanto riguarda Seba invece è proprio l'esatto contrario, cioè Seba mi sembra ritmicamente molto dotato, addirittura si è avventurato su dei tempi dispari. Ho fame! Ho fame! Così me la mangia! Ho fame! Ho fame! Così me la mangia! Suona e canta contemporaneamente. Però tu sai che sul palco c'è il limite che tu non puoi suonare lo strumento, devi solo cantare. Quindi questo è un valore aggiunto per la sua carriera, ma sul talent non possiamo farci. Sul talent, quindi quello che conta è cosa deve fare. Non può fare niente, lui deve solo fare ballare e cantare. Beh, anche interpretare, no? Fisicamente. No, certo, però non puoi aiutarti con strumenti. C'è un talento della squadra del maestro Tafuri che questa espressività la sfrutta alla grande. Certo, stiamo parlando di Nevruz. Lui possiamo dire che le sfrutta tutte le espressioni. Lui quando canta un certo tipo di canzoni che sono un po' più filo punk, filo americano, cane contro il sistema, ecco che compare normalmente nel preinciso, compare questa espressione da zingaro col mal di stomaco che sarebbe la faccia sofferente mentre canti. Sì, ma è un tipo di sofferenza molto particolare, perché ha a che fare con la tua interiorità, non esattamente astratta, ma con l'interiorità proprio materiale, no? Vieni con noi, siamo ragazzi di oggi, noi dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti... Ecco, ma se Seba è il Nevruz di Kid Factor, chi potrebbe essere il Dini di X Factor invece? Dini potrebbe essere Nathalie, secondo me. Una donna, cioè, non voglio dire, un po' il suo, ma non mulino, so, io non voglio dire, vabbè. Però qui, ma guarda che guarda che stiamo andando verso un mondo in cui la sessualità non avrà nessuna importanza. Tiziano Ferro, d'altra parte, dico questa cosa, Drago. Tiziano Ferro, ma ricordo che il professor Veronesi ha detto che tra 50 anni il gesto sessuale sarà esclusivamente un gesto d'affetto, non sarà più la definizione di un maschio e di una femmina. Quindi prepariamoci, perché per esempio lo zingaro con mal di stomaco, perché? Chiediti perché c'è mal di stomaco lo zingaro, perché quello viene da una cultura millenaria di nomadismo, arriva in Italia, vede le donne, vede a Milano le donne che sono senza tette, si chiede perché andasse sotto casa di Veronesi, e ricordati che quando Veronesi dirà ragazzi zingari tutto a posto, me li prendo io a casa mia, noi diremo bene, molto bene, cioè. Siccome questo non avviene, allora dici va bene il mal di stomaco, va bene lo zingaro, va bene le donne senza tette, però ogni tanto fatemi divertire, insomma, cioè io come devo fare? Perciò mi viene mal di stomaco. Comunque, per la prossima puntata di X Factor, per il maestro Tafuri e per Re Elio, suggerirei il costume dell'asilo. Quindi il grembiulino, un fiocco. È una bella idea, sì. Ecco. È una bella idea perché... Cioè, sarebbe bellissimo che questa provocazione qualcuno fosse in grado di coglierla. Io temo che siano così infantili che non se ne renderebbero conto. Vabbè, vedremo. Se nelle prossime settimane il maestro Tafuri e il maestro Elio si vestiranno come degli scolaretti, sarà anche un po' merito nostro. Sì. Grazie. Maestro Tafuri. Suona la campanella, è finita. Cioè, pensavo che facessi il gesto tipo c'ho la pelle d'oca dall'emozione. Invece, guardavi l'orologio. Povero maestro Tafuri. E cosa? Con un toy piano, un pianino lì, non potevi fargli trovare qualcosa di meglio? Ma lui è un pianista eccelso, anche un toy piano lo trasforma in qualcosa di sublime. Sì, shh, però... ascolta! Steinway. Vabbè, ringraziamo il maestro Tafuri. Questo era Chiedo Asilo. Domani e mandate le vostre divise austro-ungariche a chiedoasilo@radio24.it.